sono vero come clero, mentre fotte il tuo bambino. Ti assolvevano per soldi, ora gli basta un pompino. Sono un assassino, uccido dal sud, siamo gli Ashishin. E il mandante è veglio di Alamut, siamo la mafia come a Fela. Una guerra, Chico, tu puoi fare, usiamo la screna. Vuoi la scena vera? Io l'ho cercato una sera, poi sono restato con la schiena contro un'altra schiena. Sei una cazzo di cancrene, di merda in vena. Te ne diamo sempre un po' di più come arena. Non veniamo dal ghetto, pensavo dal distretto. Ti colleghiamo senza ponte sullo stretto. Siamo un gregge in fretta. Viene foto del tuo inferno e dell'occulto del tuo mondo perfetto. Siamo culi da parte, fratello. E il true friend, stronzo e tenso. Dopo i primi 15 un altro colpo lo espulso. Non veniamo dal ghetto, ma straight from the retto. Spingiamo dal distretto, straight from the retto. Questa merda pulsa, straight from the retto. Straight from the retto, straight from the retto. Non veniamo dal ghetto, ma straight from the retto. Spingiamo dal distretto, straight from the retto. Questa merda pulsa, straight from the retto. Veniamo dritti dal culo, straight from the retto. Ogni mattina mi sveglio, poi la passo sul cesso. Spingiamo merda spessa, straight from the retto. E ogni mia rima retrita in una galleria del vento. Intendo che si chiusa il beat come anestetico, mentre tu funk si spazza il diuretico. Intendo il man, sono pragmatico sul mio lato pratico. All'occorrente estetico, più teoretico del peso diabolico. Come bello, sono un cazzo di elefante, non dimentico. Sono autentico, camaleontico e patetico. Sono un politico, che fotta destra manca perché è democratico. Spingiamo merda in giro, come in un puttan tu. Birri col Campari, quando partiamo per il Catapani tu. Ci risvegliamo la mattina a Kathmandu. Sei meglio tu la mia crew, se sono in una boy band. Canzone, tu succhi in una gangbang. Non veniamo dal ghetto, ma straight from the retto. Spingiamo dal distretto, straight from the retto. Questa merda pulsa, straight from the retto. Straight from the retto, straight from the retto. Non veniamo dal ghetto, ma straight from the retto. Spingiamo dal distretto, straight from the retto. Questa merda pulsa, straight from the retto. Veniamo dritti dal culo, straight from the retto. È la follia totale, ce n'è un totale di porri sulle strade. C'è chi vade e chi invade, sono sciarade che ho letto. Ho cicatrici sul corpo, c'è il brevetto in affitto. Architetto più di Mangoni, sono quello bravo, il bravo di Manzoni. Facciamo azioni, abbiamo merda sovversiva. Preferisco una mista, una riga. Ho 8 barre in fila, ne capirai ogni rima, dimostrando la tesi di Riemann. Che smesso che sei, Zorba, non sapevo che fossi così spiritoso.